Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Andiamo avanti insieme col Signore per il bene della Chiesa e del mondo. Grazie, vi importo adesso di tutto il cuore la mia benedizione. Sia benedetto Dio Onnipotente, si benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, buonanotte. Grazie a voi tutti. E il Papa ieri, il Papa dimesso, si allontana in elicottero. Ma è una scena che la trovo fantastica, per quanto l'abbiano potuta cercare di pompare tutti i telegiornali, questo elicottero che girava sopra Roma. Doveva esserci la folla in giubilo che scendeva per le strade, tutti a acclamare il Papa. In realtà ognuno continuava a fare la sua vita, salvo che su qualche terrazza c'era qualcuno che sventolava i fazzoletti, ma probabilmente era una clac organizzata, sì, perché in realtà non mi sembra che il mondo abbia poi tutta questa apprensione per il Papa che vola via in elicottero. Anche perché è una scena già vista, mi ricorda il film di Dan Brown in cui il camerlengo si allontana sull'elicottero, poi scende col paracadute, quello cattivo, il Papa cattivo naturalmente. Qua abbiamo soltanto papi buoni, papi cattivi non esistono. Ma anche la scena iniziale, la sequenza iniziale della Dolce Vita inizia come un elicottero che gira sopra Roma con attaccata la statua di una Madonna. Anche lì qualcosa di fantasticamente profetico probabilmente rispetto a quello che sta accadendo. Beh, questa mattina guardo le prime pagine dei giornali. Sono prime pagine che in realtà nessuno immaginerebbe di aver mai visto, perché il Papa si vede vivo, si vede al balcone, si può vedere malato in certe occasioni, ma sempre al suo balcone, si vede durante le sue visite pastorali, poi si vede bello lì, stecchito nella gloria eterna degli uomini in attesa della risurrezione della carne. E non si è mai visto un Papa che volta le spalle, come vedo in prima pagina della stampa, una foto fantastica, a piena pagina, si vede il Papa dal suo balcone che si gira e se ne va, il Papa che se ne va. Oggi c'è una tendenza generale nel sottolineare il valore umano, il gesto coraggioso, il Papa che se ne va, ma onestamente, io dico molto francamente, con sommo rispetto per la figura del pontefice, ma a me fa molta più pena un esodato, un disoccupato, una persona che è costretto ad andarsene in un posto che per lui è vitale, poi questo signore che alla fine se ne va, va in un posto che tutto sommato va a star bene, un bel convento di suore, tutti lo accudiranno, tutti lo terranno al centro delle loro attenzioni, potrà pregare, potrà vivere felicemente gli ultimi anni della sua vita, e con addirittura la veste talare, va a mettere le scarpe marroni invece che le scarpe rosse. Che sacrificio sarà mai questo? In realtà starà sempre lì e come una spina del fianco del nuovo Papa, perché ci sarà un Papa nella piena gloria degli altari dentro San Pietro e un altro Papa che sta lì sotto a 50 metri dentro il convento di monache, lo guarderà con il binocolo ogni giorno e dirà: ci sono anch'io. Sarà esattamente così o sarà qualcosa di diverso? Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, che qui accanto a me in questo momento, pieno di giubilo perché ha nelle mani il suo nuovo libro, Le mani sul Vaticano, il Papa sta morendo, la Chiesa trema, chi ha veramente le chiavi del potere, editor Rizzoli, che tu hai scritto in un momento che non immaginavi, che in realtà fosse così corrispondente all'attualità, hai fatto un libro che in sé ha dei semi di profezia. Mai un vaticanista ebbe un momento così felice di potersi occupare di un Papa che ancora esiste, che ancora è vivo, ma è dimesso, e di un Papa che sta per essere fatto. Sì, è un momento straordinario, in effetti, poi si vive giorno per giorno, cioè in qualche modo questa avventura, questo fatto lo stiamo vivendo con una novità quotidiana, come del resto l'ha vissuto il Vaticano stesso con una realtà quotidiana. Hanno legiferato giorno per giorno, non sapevano come dovevano chiamarlo. Beh, non ci hanno dormito la notte, hanno inventato tutto. Hanno inventato tutto, però questo è anche un lato interessante, che lo stesso portavoce quotidianamente a domande diceva: su questo ancora non è stato deciso, ve lo diremo magari domani. Quali sono state le novità assolute? Innanzitutto, io partiamo dalle cose più banali. È stata creata, diciamo la verità, una grande liturgia di uscita di scena del Papa. La storia dell'elicottero, non ho sentito parlare da una settimana che ne parlavano, se ne andrà con l'elicottero. E non posso non pensare che non si siano ispirati a Dan Brown. L'elicottero sopra San Pietro è l'elicottero del camerlengo. Allora, diciamo che in effetti questa è stata, in questo pontificato forse l'uscita, cioè ieri, l'unica concessione allo spettacolo che ha dato Ratzinger in questi anni. Gli ultimi 3 giorni, le telecamere alle sue spalle non c'erano mai state quando parlava dalla finestra del suo studio domenica scorsa. C'è stato un po' di concessione, diciamo così, alla... No, ti ricordo il giorno in cui fu proclamato questo Papa, che si presentò, io ero in piazza, perché lo seguivo per il mio giornale, con la maglietta nera che usciva, sì, fuori. Col golf nero sotto. Una cosa tristissima, un umarel preso, messo lì, e se ne va con l'elicottero. Cioè, parte dimesso e se ne va dimesso. In qualche modo sì. Beh, insomma, comunque l'ultimo saluto, arrivederci, buonanotte, voglio dire, non era un copione studiato, sicuramente la frase sono soltanto un pellegrino naturalmente è pensata. Sì, già mi hanno scritto, anche io vorrei fare il pellegrino con l'elicottero e 4 badanti, qualcuno ha scritto, cioè, il pellegrino se ne va a piedi, sarebbe stato meglio. Cioè adesso noi ci scherziamo sopra, ma un papa che si spapa presta il fianco naturalmente a tutte le possibili letture secolari che noi possiamo fare, non per accanirci, ma considerato questo fatto, perché in realtà trovo che sia forte per un cristiano vedere un papa che se ne va e rimane lì. Questa mattina cosa fa? Ci dice buongiorno, ben alzati, avete preso il cappuccino. Ignazio Ingrao. Buongiorno. Ciao Ignazio, vaticanista di Panorama. Tu mi avevi detto qualche giorno fa partirà con il Papa, quindi già c'era la notizia della liturgia dell'uscita del Papa di scena. Sì, certo, anche se effettivamente per certi versi, diciamo, hanno cercato, mi sembra, di tenere per quanto possibile un profilo basso anche dal punto di vista comunicativo, una certa sobrietà, anche se poi ieri con l'elicottero l'attraversamento di Roma è stato suggestivo in quanto comunque un momento storico, tuttavia una sobrietà dei gesti del Papa che ha fatto, diciamo, da contrasto con la drammaticità, la sostanza, diciamo, della drammaticità del gesto che ha compiuto. Perché drammatico, Ignazio? In particolare poi te con il tuo giornale state dando anche degli aspetti inediti rispetto a questo fatto. Vediamo se riusciamo a capire il contesto, al di là della facezia iniziale. Ecco. Ma perché appunto drammatico? Perché comunque è maturato in un contesto, diciamo, difficile, di scontro, di divisioni, di lacerazioni, soprattutto interne alla curia, ma anche di divisioni nella Chiesa mondiale, perché noi abbiamo le suore del Nord America che sono state commissariate ormai da mesi dal Vaticano, abbiamo comunque ancora la... Perché commissariate, Ignazio? Perché commissariate? Commissariate per la loro, diciamo, apertura sui temi della giustizia sociale, sulle grandi questioni che riguardano anche la morale sessuale e anche, diciamo, come dire, l'ortodossia di un certo magistero della Chiesa. Ma perché cosa avrebbero fatto le suore del Sud America per riguardo alla morale sessuale? Sono nordamericane. Nordamericane, sono nordamericane, ma rispetto, diciamo, ad una conferenza episcopale che nella sua stragrande maggioranza va verso, diciamo, un'impostazione molto, come dire, molto ortodossa sui temi della morale, le suore nordamericane si pongono, diciamo, il problema invece di una società che è sempre più secolarizzata e non riesce ad ascoltare o comunque non riesce a seguire il messaggio della Chiesa su quella linea, e tante altre questioni, la questione della pedofilia che con le dimissioni anche del cardinale O'Brien si mostra ancora una ferita totalmente aperta e, diciamo, non risolta almeno anche nella coscienza, diciamo, nel sentire anche della gerarchia. Ecco, riguardo a questo tutto Ignazio, questo per dirti che, diciamo, è una situazione che è maturata in una difficoltà interna della curia e in una difficoltà, diciamo, planetaria della Chiesa, e il Papa cede il passo indicando una strada che è quella del rinnovamento e della purificazione, e qui la drammaticità e il peso che lascia sulle spalle dei cardinali. Beh, sai, è un po' difficile, non vorrei sembrare cinico e spietato, il Papa è un po' come, secondo me, nella mia visione, ma molto campagnola e probabilmente arcaica e rozza, proprio come il capitano della nave. Se la nave sta affondando, il Papa rimane sulla nave, non è che se ne va con la barchetta, dice beh, seguite bene la strada della purificazione, poi lui se ne va, il Papa rimane fino all'ultimo, sta lì, diventa egli stesso probabilmente vittima di un sistema perverso, è giusto che sia così, perché se la provvidenza esiste in tutte le cose, se dobbiamo accettare ogni disgrazia ci cade sulla testa come segno della provvidenza, chi meglio del Papa deve accettare il segno la provvidenza della Chiesa che sta andando a scatafascio. È vero, hai ragione, questo però è un primo livello di lettura, magari c'è un secondo livello. Le prendo le responsabilità, lo dico io in quanto persona laica che osserva e mi faccio interprete di un pensiero generale, è logico che poi ci sono delle spiegazioni tipo più profondo. Sì, c'è un secondo di livello di lettura, secondo me più profondo, che è quello che in questo modo lui da una parte azzera, diciamo, la curia e lascia una pagina bianca al suo successore, e poi indica con chiarezza appunto quella che deve essere una strada nuova da percorrere con un'energia nuova, e quindi in questo senso, diciamo, non scappa ma impegna i cardinali in maniera molto forte a scegliere qualcuno che vada in una determinata direzione. Se fosse rimasto forse debole in questo contesto, in questo sistema, rimaneva avviluppato e non riusciva anche, diciamo, a spezzare una situazione che anche i suoi collaboratori gli avevano creato intorno. Ecco, io adesso a questo punto vi faccio sentire una voce, la voce di un personaggio molto noto, anche molto nella evidenza delle cronache in questi ultimi giorni, per alcune sue dichiarazioni riguardo alla scena politica, riguardo a voci che giravano sul suo conto rispetto a sue probabili o improbabili candidature, che però ha detto la sua anche riguardo al tema più generale del papato, della morale sessuale, del punto sulla Chiesa. Io credo che quello che è il loro mondo, così come veramente vengono educati e vengono portati in un ambiente che è orribile, che è metafisico addirittura, ebbene è la prima causa dura della loro condizione. Di sotto c'è la grande testardaggine della Chiesa, che ha paura oltretutto di cambiare registro, che è quella della riforma. Insomma, a un certo punto la riforma cosa ha detto? Per salvare voi da ogni mancanza di dimensione umana, l'unica è darvi una famiglia, farvi sposare, e non potete essere padri senza figli, e quasi tutte le religioni non sono come quella cattolica, salvo alcune religioni orientali dove... Questa è la voce di Dario Fo, l'avete riconosciuta. Dario Fo ha fatto la prefazione del libro di Angela Camuso, La preda, le confessioni di una vittima, storia vera del più grande scandalo della Chiesa tra fede e omertà, libro di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. Angela Camuso ci ha portato la voce di Dario Fo, l'abbiamo in esclusiva, e è questa mattina qui con noi. Angela, buongiorno. Buongiorno. Ecco, noi abbiamo già parlato del tuo libro, parla di un fatto vero, di un fatto molto concreto. Vuoi riassumere velocemente qual è l'argomento del tuo libro e poi la novità che ci porti questa mattina riguardo al tema su cui stai lavorando te, che è appunto quello della, diciamo, scandalosa vena all'interno della Chiesa, che, su cui il Papa si è espresso in maniera molto chiara, anche in maniera molto decisa, ma come ci ha detto Ignazio Ingra, un problema non proprio risolto. Sì, La preda, il libro uscito 2 mesi fa con Castelvecchi, è un libro che racconta il dramma della pedofilia, mette le mani nella piaga attraverso il racconto di una vittima e attraverso la rielaborazione delle carte giudiziarie che riguardano un caso clamoroso, unico in Italia, perché è stato un caso in cui è stato coinvolto un vescovo, che è stato anche indagato per concorso in violenza sessuale e poi anche se poi appunto prosciolto, e che è il caso di Don Ruggero Conti, che è stato condannato a 15 anni e 4 mesi per aver violentato 7 ragazzini, che era economo della curia romana ed era anche stato nominato portavoce alle politiche della famiglia dell'allora futuro sindaco Alemanno. Io lo definisco un romanzo verità, perché lo stile è quello del romanzo, ma è verità perché la storia è tremendamente vera, le circostanze sono vere, i luoghi sono veri, chiaramente i nomi delle vittime vengono comunque tenuti. Allora, Dario Fo, in questo caso, poi lo sentiremo in varie parti, abbiamo una lunga intervista, alludeva al fatto che tutto nasce il problema dai seminari, questo è il suo punto di vista, dice che in realtà c'è qualcosa di fortemente perverso nel costringere queste persone alla segregazione, sarebbe molto meglio ritornare ai tempi in cui i preti possono tranquillamente avere una loro vita matrimoniale. Tu però questa mattina hai anche fatto un'intervista, uscita oggi sul Secolo XIX, che aggiunge qualcosa a quello che stiamo dicendo. Sì, in realtà si allaccia molto al discorso che facevano prima i colleghi vaticanisti. Un'intervista di Monsignor Charles Scicluna, che è l'ex promotore di giustizia presso la Congregazione per la Dottrina della Fede, cioè l'ex PM antipedofilia, voluto da Ratzinger, uomo di Ratzinger, che è stato trasferito a Malta, cosa che ha destato comunque una serie anche di sospetti all'interno e fuori della curia, visto che era un uomo di Ratzinger ed è stato comunque promosso, ma per promuoverlo a vescovo, ma per promuoverlo è stato mandato fondamentalmente lontano da Roma in una sede periferica. Scicluna dice delle cose importantissime, secondo me, perché finora non sono state mai dette ufficialmente da nessun esponente della Chiesa e sono state soltanto delle interpretazioni giornalistiche. Scicluna dice: il Papa, andando via, manda via tutte le persone di cui non si fidava pienamente, ha anticipato la sua morte, ha fatto un atto rivoluzionario e afferma che ha fatto questo adesso perché adesso lo può fare da uomo libero, in quanto la sua mente funziona perfettamente. Se lo avesse fatto più in là, ci sarebbe stato il fortissimo dubbio sul fatto appunto che fossero state dimissioni più o meno libere. Dice appunto: forse non volendo, non potendo decapitare la Chiesa, i capi della Chiesa, si è appunto dimesso e infatti di fatto da ieri tutti i capi decadono. E questo, secondo me, insomma, affermato così testualmente da una persona come Charles Scicluna è una cosa, diciamo, di peso. Ecco, vorrei il commento dei due vaticanisti. Maroni, rispetto a quello che ha detto il cardinale Scicluna a Angela Camuso, ha veramente decapitato la Chiesa o rimane ancora forte quello che è stato il movimento palesemente di fronda nei rispetti di questo Papa? Allora, sicuramente in questo momento gli uomini che hanno comandato, che fronda, diciamo, si sono fatti la guerra fra di loro. Poi c'è stata una fronda, diciamo, per esempio sulla questione della pedofilia e quindi della lotta a tutte le questioni legate agli abusi commessi in giro per il mondo. Ratzinger ha dato un impulso abbastanza forte e Scicluna lo aveva interpretato nella maniera più estensiva possibile, fece delle dichiarazioni molto forti. L'interpretazione generale, come diceva giustamente Angela Camus, gliel'hanno fatta pagare. Gliel'hanno fatta pagare perché aveva detto cose che evidentemente cozzavano contro un comportamento generale che in qualche modo ancora c'è, e cioè un prete, un sacerdote, un religioso, una religiosa beccata a fare cose, a commettere questi reati contro bimbi indifesi o giovani indifesi, in qualche modo la si risolveva trasferendola o trasferendolo, mettendo la cosa un po' a tacere, risolvendola in casa. Non si affidava al braccio secolare della giustizia. No, ecco, questo è l'altro punto, che questo anche i cardinali italiani, insomma la conferenza episcopale italiana, anche qui è un po' forse ancora leggermente, diciamo, indietro, e cioè non c'è l'obbligo da parte, c'è l'obbligo imposto dalla Chiesa ai propri vescovi di denunciare all'autorità giudiziaria notizie di reato quando se ne viene a conoscenza. Il tema qual è? Che se un prete va dal proprio vescovo e gli dice: eccellenza, io ho commesso queste cose, allora quello dovrebbe alzarsi e chiamare il giudice, chiamare i carabinieri. Certo. Non lo farà mai nessuno, lo fanno? Il tema è questo, centrale, finché non accadrà questo. Il problema, dicono, la Chiesa, ma se così accade nessuno poi va più dal vescovo a chiedergli consiglio. Però finché non ci sarà questa rottura della, diciamo così, pseudo-omertà o omertà vera, a seconda dei livelli, la questione rimarrà sempre centrale. Ignazio Ingrao, di Panorama. Ma sicuramente noi avevamo assistito appunto ad un, per esempio, ad un attrito, uno scontro forte tra Scicluna e la Conferenza Episcopale Italiana, che aveva preparato, diciamo, le linee guida sulla base del documento di Ratzinger e della Congregazione per la Dottrina della Fede, delle pallide linee guida che lo stesso Scicluna poi aveva criticato ed era diventato, diciamo, un ingombrante per molte conferenze episcopali, e quindi alla fine è stato destinato, tra virgolette, a nuovo incarico. Il Papa, appunto, con questo suo gesto ha azzerato i vertici della curia e quindi, come dicevamo, ha una pagina bianca al suo successore davanti. Però io credo che se dobbiamo appunto guardare al domani, mi sembra che parlando anche con i cardinali, sono a un bivio fondamentalmente. Allora, o nominare, diciamo, un papa che restauri la, come dire, un papato carismatico alla maniera di Giovanni Paolo II e in maniera carismatica e autonoma, individuale, proceda a rinnovare e purificare la Chiesa, e questa può essere una strada. Oppure una seconda strada, tra virgolette, conciliare, un papa che invece per, più per la collegialità e con un Concilio Vaticano III, o comunque, diciamo, con una più forte attenzione alla collegialità dei vescovi, proceda comunque a questa azione di rinnovamento e riforma. Io credo che queste siano le linee principali, al di là della, del colore della pelle del prossimo papa, che si confrontano in questo conclave. Melog, la realtà condivisa. Nel mio paese c'era un prete di casa che stava sotto dove abitavo io, abitavo vicino al lago, aveva un negozio dove c'era dentro una donna ancora giovane, se devo dire, e il prete veniva a trovarla girando di dietro ed era la sua amante in un paese e tutti lo sapevano, ma davanti al fatto che avesse una donna, va bene, era, anzi era uno sfogo naturale. 800 24 0024, questo è Dario Fo, intervistato da Angela Camuso, che ci ha dato la sua intervista. Dario Fo ha fatto una prefazione del suo libro La Preda, Confessione di una vittima, editore Castelvecchi, e racconta, è un lungo racconto che fa con la giornalista Angela Camuso, e dice il suo punto di vista. In questo caso parla della sua esperienza, si ricorda di un paese in cui c'era un prete e tutti sapevano che aveva moglie e figli. Nelle piccole realtà montane, rurali, il vociferare molte volte risponde a realtà, questo non significa solamente nulla. La linea generale si sa che è esattamente, in maniera incontrovertibile, orientata al celibato, però una delle voci che sostiene appunto Dario Fo è quella che probabilmente una soluzione dovrebbe essere quella di abolire questa sorta di diktat. Mauro, buongiorno. Buongiorno a voi, io ho chiamato per rettificare comunque alcune affermazioni secondo me inesatte che ho sentito nel corso della trasmissione. Benissimo, siamo qua per ascoltarla. Ecco, lo faccio da un punto di vista professionale, in quanto vabbè, sono avvocato della Rota e avvocato quindi, rotale, sì. Sì. E mi occupo anche di alcune cause, anche le congregazioni, per alcuni di quei casi di cui si stava parlando. Sì. Lei, diciamo, si occupa di, diciamo, dello scioglimento dei matrimoni di coniugi con figli per non consumazione, cose del genere. Ma anche delle questioni penali canoniche, quindi anche di qualche caso di pedofilia piuttosto. E quindi cosa avviene? Quando un vescovo sa che un suo prete se la fa in maniera squallida, abnorme con ragazzini, allora, cosa fa? Io vorrei dire che innanzitutto non è vero che esiste una politica generalizzata di copertura di queste situazioni. Ovviamente sono cose rimesse alle sensibilità dei singoli, che a volte sono molto differenti da un presule a altro. Personalmente mi sono accorto che comunque, e questo è un dato che purtroppo no, ci faccio qualche dato, scusi avvocato, io, chiaro, lei parla pro domo sua, però è logico, mi dica quanti vescovi denunciano all'autorità di polizia e giudiziaria dei preti che sanno in reato incontrovertibile di pedofilia o molestie verso minori. Guardi, io adesso la sto chiamando dalla macchina, per cui non hai dati sotto mano, non posso poi fornirgliene molti, però posso dirle che comunque esistono casi in cui sacerdoti denunciati all'autorità giudiziaria dal proprio vescovo e assolti dalla procura della Repubblica competente. Ma perché comunque, sarà sbagliato il vescovo? Perché comunque voglio dire, si è riscontrato che le accuse sulla base delle quali era partito il procedimento si sono rivelate infondate. Beh, ma questo è molto grave, vuol dire che i vescovi usano questo strumento nei confronti dei sacerdoti, allora, in maniera indiscriminata. Il vescovo può anche essere in buona fede e fare semplicemente quello. Comunque lei, alla sintesi, avvocato, se no Lei vuol dire che in realtà lo strumento di ricorrere all'autorità giudiziaria, secondo lei, avvocato Rotale, chiaramente lo dice in una condizione di parte, è chiaro, non è che questo me ne rendo conto. No, va bene, io adesso per carità non voglio entrare nel caso singolo e non sto difendendo nessuno, per carità, comunque sono crimini assolutamente riprovevoli. Però è anche vero che, ripeto, io conosco situazioni di sacerdoti assolti in sede civile, cioè in sede penale, da questo tipo di imputazione e che poi hanno dovuto affrontare un procedimento canonico perché comunque il loro vescovo non soddisfatto ha voluto vederci più chiaro. Non gli bastava un ulteriore procedimento con quelle che sono poi i provvedimenti. Vabbè, ne prendiamo senz'altro atto. Carlo Marroni, su questa telefonata. No, sicuramente l'avvocato conosce storie. Io di vescovi che contro la volontà dello stesso sacerdote abbiano telefonato al magistrato dicendo di queste cose, forse qualche dubbio, ma non perché metto in dubbio la parola dell'avvocato, è che non ci sono notizie. Non sono casi così clamorosi che sono arrivate alle nostre orecchie. Diciamo, la copertura, ora, bisogna capirci, ha funzionato per millenni questo atteggiamento. È ovvio che la Chiesa è messa davanti alle sue responsabilità negli ultimi anni. E diciamo questo... che era un po' di manica larga. Esatto. Anche sui termini del reato non erano nemmeno tanto convinti. Quello che avveniva nei seminari era una cosa ormai risaputa. Magari era il vescovo stesso che da ragazzo l'aveva subita. Quindi... Da ragazzo ha avuto un altro istitutore che l'aveva fatto. C'era una sorta di... No, ma non dico che questo sia sempre avvenuto. Sì, magari però... è accaduto. Quindi, ecco, ora diciamo così, c'era questo atteggiamento di dire qual è il vero reato alla fine. Che c'è di male se ci occupiamo di ragazzini. Ignazio Ingrao, rispetto a questo, qual è il tuo punto di vista? Hai notizie più approfondite? Il problema è che c'è una curiosa oscillazione, diciamo, all'interno della Chiesa, anche per come è strutturato il processo penale canonico, insomma, rispetto anche alle garanzie, diciamo, per l'imputato. Quindi si va da una parte a quello che è stato semplicemente l'atteggiamento di trasferire piuttosto che di i preti, diciamo, accusati di molestie o sospettati di molestie, piuttosto che affrontare. Questo è stato il tema, diciamo, che ha attraversato alcuni decenni di storia della Chiesa. Dall'altra parte poi invece c'è il giustizialismo, nel momento in cui si apre una procedura oppure si prendono, diciamo, poi delle sanzioni, che arriva fino alla riduzione allo stato laicale. Che poi riduzione allo stato laicale che cosa significa? Allora, che a quel punto la Chiesa si lava le mani, diciamo, del reo, non lo accompagna, non lo assiste più e lo lascia, diciamo, preda della sua situazione nella società, e quindi comunque rimane a rischio. Quindi si oscilla da questi due estremi, e sono questi due estremi poi che appunto si confrontano ancora nel conclave, cioè tra i garantisti e invece, diciamo, i giustizialisti della tolleranza zero, che arrivano poi a pubblicare gli elenchi dei semplici preti sospettati. Ecco, la Chiesa non è riuscita ancora a trovare il giusto equilibrio. Angela Camuso, tu che hai trattato nel tuo libro un caso molto eclatante rispetto a quello che è ormai il tuo territorio di indagine giornalistica, hai modo di confermare anche te che esistano queste due anime così differenti, così distanti, sia difficile trovare un punto di equo compromesso per cui si stabilisca una regola che valga per tutti riguardo all'attenzione di questi reati? Beh sì, comunque è evidente che il problema è l'omertà che deriva comunque da tutta una cultura che non è soltanto quella della chiesa, dei palazzi, ma è anche quella della comunità cattolica, del popolo cattolico, che si trova di fronte ai racconti di storie del genere, perché in questo libro si evidenzia non soltanto un vescovo che non va oltre, comunque qualcosa fa questo vescovo, devo dire, il vescovo che è Gino Reale, il vescovo di Don Conti. Lui a un certo punto, quando arrivano più ragazzi da lui a denunciare questi fatti, istituisce finalmente un tribunale canonico e chiede a uno dei ragazzi di andare a testimoniare, ma lui non va perché ha paura che lo venga a sapere la famiglia con una convocazione ufficiale. A quel punto il vescovo si ferma ma e c'è chiaramente da chiedersi se invece avrebbe dovuto andare avanti, però perché di fatto poi lui ha confermato il prete per altri anni e quindi il prete ha continuato a violentare i ragazzini. Fino a quando, però, ecco, questo è un altro fatto da dire, un altro prete ha denunciato Dorgero Conti alla polizia. Sì, quindi c'è da dire che soprattutto quelli che si occupano di... è come mettere una faina in un pollaio, è chiaro, finché li lasci a svolgere delle ore nei seminari, negli istituti religiosi, nelle scuole, negli asili, negli oratori, li lasci sempre in continuo contatto con quello che è l'oggetto del loro reato. Sentiamo un attimo due ascoltatori. Luigia, buongiorno. Buongiorno, sì. Io chiamo da Roma, dunque volevo semplicemente dire, io sono una persona credente, cattolica e anche praticante, lo sono da non molti anni, c'è stata una conversione, qualcosa, delle situazioni che mi hanno... Vabbè, sarà più convinta di quanto è convinto un praticante per strascico. Sì, sì. Volevo semplicemente dire che secondo me questo problema, e ne sono a favore comunque per un cambiamento, un ampliamento di veduta della Chiesa, magari attraverso... Si vada al punto, Paoluigia. Ecco, sarei assolutamente favorevole al matrimonio nel sacerdozio. Cioè i preti si sposano, diciamo, hanno modo di esprimere anche la loro sessualità in maniera canonica e quindi non vanno addosso ai ragazzini. Questa è la sintesi brutale. Certo, negli stessi Vangeli non è che si parla assolutamente di un divieto di questa cosa e comunque anche parlando con sacerdoti, persone con cui parlo, nessuno di loro dice che è una cosa che non si deve fare. Allora, si fermi un attimo, le faccio sentire un altro tranche dell'intervista di Angela Camuso a Dario Fo, che parla proprio di questo. Nel 1000, per esempio, a Milano, il vescovo di Milano ha moglie, figli, e c'erano preti che tranquillamente avevano la famiglia, anzi c'è un pezzo che io ho trovato che veniva realizzato durante una festa che era la festa che preparava la Pasqua ed era il Risus Pascalis, in cui tutta la chiesa rideva, sghignazzava, si facevano lazzi, eccetera, eccetera. E uno dei lazzi più ripetuti era quello del prete che, mentre sta pregando per un funerale, viene distratto dalla moglie che gli dice: ti lascio qui il figlio perché io devo andare a fare la spesa, devo andare poi da mia madre che non sta bene. Ignazio Ingrao, tu sei convinto che il problema sia veramente questo, che l'apertura, che mi sembra molto poco probabile, non è scritto da nessuna parte, non è nemmeno all'esame, all'addio al celibato della Chiesa risolverebbe poi il problema, diciamo, dei reati sessuali nei confronti dei minori? Ma nella Chiesa Cattolica ci sono già tanti preti sposati, che sono tutti quelli di rito orientale, quelli che sono venuti dalla confessione anglicana, quelli che sono stati riconosciuti dalla ex Cecoslovacchia, quindi in realtà abbiamo già un bel catalogo di preti sposati nella Chiesa Cattolica. È apostolica romana, però, che ancora tiene la posizione. Nella Chiesa Cattolica romana, no, poi ci sono le altre chiese cristiane che hanno naturalmente addirittura, insomma, vescovi e pastori sposati, ma insomma nella nostra Chiesa Cattolica Romana ci sono tutti quelli di rito orientale, quantomeno, che sono sposati. Ma non di là c'è nessuno punto, che porta avanti questa idea nella Chiesa Apostolica Cattolica Romana? Certo che c'è, c'è tutti i teologi tedeschi e svizzeri hanno fatto un documento quando il Papa è andato in visita in Germania, in cui tra i vari punti c'era anche questo. Io credo che sia un punto importante di discussione, appunto, che il prossimo Papa avrà sicuramente sul tavolo. Non credo però che sia un fatto che possa risolvere da una parte la crisi delle vocazioni e dall'altra il problema della pedofilia in sé, perché ahimè purtroppo, diciamo, di casi di pedofilia anche in famiglia si registrano e anche troppi, però comunque sicuramente, diciamo, sarà un modo, affrontando il tema del celibato sacerdotale, di misurarsi col problema della sessualità e quindi comunque con tutti quegli aspetti che poi riguardano anche l'atteggiamento della Chiesa nei confronti dell'omosessualità e via dicendo, che sono ancora in parte irrisolti o nascosti, diciamo che la Chiesa non è riuscita ancora ad affrontare in maniera, diciamo, libera e piana. Quindi sì, è illusorio pensare che introdurre l'istituto del matrimonio dei preti risolve il problema. È chiaro, quello che avviene probabilmente, a detta di tanti, nei seminari continuerebbe a avvenire. Non è che se poi i preti si sposano, si sposeranno i preti, gli va di sposare; ai preti che non gli va di sposare continueranno a fare quello che hanno sempre fatto, molto probabilmente faranno i preti poi per trovarsi come faine dentro i pollai. Melog, la realtà condivisa. I primi anni del cristianesimo la gente si sposava, tutti i seguaci di Gesù più o meno erano tutti sposati, avevano donne o avevano storie, no? Gesù stesso, con tutta la fatica che ha fatta la Chiesa, cercare di togliergli di torno donne, era uno che, secondo i Vangeli apocrifi, aveva più di una donna. E la Maddalena è, nella tradizione popolare, sempre guardata come la donna di Gesù, non soltanto perché sono grandi pittori, fra i quali anche Leonardo, che non c'è niente da fare, anche lì cercano di toglierlo, ma l'immagine della Maddalena in mezzo... È chiaro, fa parte di un filone culturale, oggi è tornato molto in auge, anche perché tutto... il racconto dei romanzi Dan Brown si basano su questo, su questa sorta di culto segreto all'interno della Chiesa per Maria Maddalena, che poi è stato via via riscritto. Però è chiaro, parlo con Carlo Marroni, che è vaticanista del Sole 24 Ore, tra l'altro appena pubblicato un romanzo, Le mani sul Vaticano, edizione Rizzoli, che parla proprio di una situazione, un giallo all'interno dell'elezione di un Papa che sta morendo, e si trova con molti punti di attualità con quello che sta accadendo. Dicevo, sono letture un po' superficiali che facciamo tutti noi, in realtà è molto più complesso. È chiaro che la Chiesa abbia riscritto e sovrascritto più volte nei secoli quella che è la sua dottrina rispetto al matrimonio e al celibato. Ma non trovi singolare? Siamo partiti raccontando di un Papa che si allontanava in elicottero, finiamo a parlare di sesso, di pedofilia, di matrimonio. È veramente soltanto questo il grande problema della Chiesa? Io non penso che sia così. No, certo che no. Sicuramente la Chiesa ha problemi più complessi. Questo è l'anno della fede, l'aveva proclamato Ratzinger, che non è riuscito a chiudere la quarta enciclica sulla fede, il tema è le vocazioni. Cioè, Ratzinger, che in questo fede e ragione, lotta al relativismo, era quello il cuore del suo pontificato. È un atto di fede, infatti. Infatti ha fatto un atto di fede. Questo della questione della pedofilia, il sesso, eccetera, però sta segnando la cronaca proprio di questo conclave. È di pochi giorni fa il caso del cardinale scozzese, O'Brien, un cardinale, il primate d'Inghilterra, stiamo parlando di non uno di seconda fila, che ha dovuto... giustamente rinunciare a venire al conclave perché si è scatenata sotto di lui una tempesta e la Chiesa, il Papa ancora nella pienezza dei suoi poteri, lo ha tolto da arcivescovo di Edimburgo. Cioè, un atto, ora poi è passato tutto un po' così perché negli eventi che si susseguono quotidianamente tutto si trita e quindi finisce, ma insomma, è successo un caso enorme. Stiamo parlando di un'accusa basata su un giornale che era il Guardian, che lo ha accusato sulla base di testimonianze di preti. Non c'è stato un processo, che probabilmente ci sarà, però per dire che la questione è talmente grossa che quando la Chiesa, come diceva giustamente Ingrao, quando la Chiesa vede, la Chiesa centrale, che il tema c'è, diventa immediatamente anche un po' estremista, nel senso anche in questo caso buono, la prende talmente di petto che va oltre anche... Deve salvaguardarsi, ma non c'è dubbio. Cioè, nel senso che se il nuovo Papa, tanto per dirne uno, decidesse che questo è veramente uno dei punti 1, 2, 3 del suo programma del pontificato, ecco, cosa dovrebbe fare però singolarmente? Non può mica fare uno screening di tutti i preti possibili e fargli, cosa fa, l'esame per vedere se... Ma in Germania la conferenza episcopale tedesca, dopo gli scandali di due anni fa che l'hanno proprio devastata, la Chiesa tedesca ha messo in piedi delle regole che insomma sono molto stringenti e non vanno tanto per il sottile. Poi è ovvio che è come dire fare una legge abolito il reato di omicidio, non sì, si può abolire, continueranno sempre ad esserci, comunque come sono in qualunque istituzione, quindi diciamo non si può abolire per legge qualche cosa che l'uomo fa. Tuttavia ci possono essere delle regole molto più forti e anche soprattutto la loro applicazione deve essere convinta che questa è una emergenza. Sentiamo qualche ascoltatore velocemente. Luigi, che aspettava da un po' di tempo. Sì, buongiorno a tutti. Non so se sono fuori tema, volevo solo lanciare questa questione. Ma potrebbe centrare qualcosa la dimissione e l'azzeramento del vertice del Vaticano col Santander e Monte dei Paschi di Siena, dove ha visto una banca vicino all'Opus Dei avere un forte guadagno con la compravendita? La risposta, adesso sentiamo il collega Marroni che è molto più ferrato di me. sarà un po' difficile dargli. Che ci sia dietro la Chiesa in questo momento qualcosa che riguarda appunto le finanze del Vaticano è logico. Non so se è uno stretto rapporto così con la vicenda Montepaschi. Carlo, rispetto all'ascoltatore. No, allora, la vicenda Montepaschi è un fatto enorme su cui lo IOR è entrato per un momento non da far dimettere un papa, eh. Ecco, direi che no, ecco, proprio non da far dimettere un papa, anche se proprio in quei giorni se ne parlava, però ecco, diciamo, è una coincidenza, una triste coincidenza, però ecco, il Vaticano e la Chiesa va per i fatti suoi, il Monte dei Paschi purtroppo ha avuto i suoi guai. Daniele, salve, buongiorno. Stavo ascoltando con molta attenzione l'argomento della giornata sulla Chiesa e credo che ci sia un punto fondamentale che non sia mai trattato, che la Chiesa ragiona fino a un certo punto con le logiche umane e politiche, perché è una derivazione appunto del figlio di Dio sulla terra, quindi le azioni del Papa, come ha detto... Beh, quando gestisce le banche parla in termini molto umani. Parla in termini molto umani, ma in generale quando si parla di papato e di governo generale, voi siete stati messi lì perché mio padre ha voluto che fosse stati messi lì. Quindi... Non dobbiamo dimenticare questo. Vabbè, quindi... Ora, quando andiamo a parlare delle scelte del Papa, delle scelte dei cardinali, dei vai di pari, dobbiamo pesarle non solo da un punto di vista politico, altrimenti facciamo un romanzo di Dan Brown effettivamente, ma dobbiamo anche valutarle da un punto di vista di un qualcosa di superiore che muove scelte e logiche che chi non è cattolico e credente non riesce a comprendere. Ma è logico, esiste anche una lettura laica, anzi prevalentemente una lettura laica, che dice i fatti degli uomini sono fatti degli uomini, chi ha una visione trascendente alla vita vede la mano di Dio in questo. Ma non... Esatto. Io sono una persona molto tollerante e molto aperto, ognuno può pensare quello che vuole, quindi lei può pensare che c'è la mano di Dio. Si parla di una costruzione voluta da Dio, altrimenti parliamo di un partito politico, non parliamo più di una Chiesa. Allora però quando la Chiesa si pone riguardo alle vicende umane, logicamente gli interlocutori possono dire: se per te Dio vuole questo mi sta bene, ma visto che per me Dio non c'è, o Dio è un'altra cosa, o non mi riconosco nel tuo Dio, se permetti mi faccio i fatti miei. Questo effettivamente è vero, però non ci dobbiamo dimenticare anche quando stiamo parlando appunto dei pedofili, dei preti pedofili e tutto quello che è stato, che pedofilo è stato il prete, ok, ma pedofilo è anche l'educatore che non è cattolico, pedofilo è anche il vicino di casa che non è cattolico. Nessuno ha mai negato questo. No, perché alcune volte può non fare, è relativizzando, dicendo lo fanno, sì, ma un po' di lo fanno tutti. In realtà da un prete ci si aspetta un comportamento specchiato rispetto a un comportamento di qualsiasi altro essere. Guardi, 1 su 12 degli apostoli tradì. Se portiamo questa proporzione con la popolazione cattolica, si può rendere conto. Ogni 12 c'è un pedofilo. Vabbè, questo è il suo punto. No, uno fa lì, non è pedofilo, uno fa lì, tradì. Non ho detto che è pedofilo, ho detto però quindi, 1 su 12 ci può. E qual è la percentuale allora? La percentuale ammissibile dal disegno divino nei preti per poter fare reati? Questo lo chiederemo nell'aldilà se c'è Dio. Al momento mi posso attenere a quanto la logica mi dice secondo gli scritti. 1 su 12 ha fallito, erano vicini al Signore. Quando ci rivedremo nell'aldilà me lo racconterà. Grazie Daniele. Maria. Sì, pronto, buongiorno. Siamo arrivati alla sigla. Maria, niente, la salutiamo. Ringrazio Maroni, ringrazio Angela Camuso. La trasmissione è finita su questa speranza di rivederci nell'aldilà a capire qual è la percentuale tollerabile di pedofili nella Chiesa.